Capitolo 5. Momento a Chongqing, settembre-ottobre 1949. Il giorno seguente la mia amica Ying venne a trovarmi. Era la prima concubina di una delle maggiori personalità di Chongqing, la cui moglie era morta 18 anni prima. Invece di risposarsi, aveva preso due concubine e Ying era una di queste. Intelligente e avida di sapere, Ying era tenuta in alta considerazione sia dalla società che dal suo signore, di cui rimaneva la favorita. Quando, 12 anni prima, io ero stata una povera sposina spaventata che non faceva che dire e fare cose sbagliate, ella si era dimostrata molto buona con me. Insieme ci confezionavamo vestiti della medesima stoffa e del medesimo taglio. Le donne cinesi non ritengono affatto umiliante il portare lo stesso vestito di un'altra donna. Ying è piccola e minuta, mentre io sono alta e di ossatura robusta. Stavamo bene insieme e Ying mi portava ovunque con sé. Passavamo ore ad ascoltare opere, a fare compere, a scegliere sete e gioielli. Il suo parrucchiere ci pettinava entrambe nella sua stanza da letto. Le insegnavo un po' d'inglese. Ricamavamo piccole farfalle e minuscoli pipistrelli sulla nostra biancheria e sulle nostre pantofole. Andavamo dal chiromante per farci dire cose piacevoli e compravamo regali per le amiche e sonaglietti d'argento per i loro bambini. Ying mi attendeva nella sala da pranzo, calma e tranquilla, come se ci fossimo lasciate la sera prima. «Non sei cambiata», mi disse subito. Anche tu non sei cambiata. I fiori dell'anno scorso erano belli, quelli di quest'anno lo sono di più e quelli dell'anno prossimo saranno ancora più belli. Ahimè, con chi li vedrò? Esclamò Ying e ridemmo entrambe fino alle lacrime sul verso del poeta. Terzo zio ci onorò della sua presenza e di una lunga perorazione sul valore del denaro americano. Quella mattina i dollari d'oro sembravano dominare la sua mente. Hai bisogno di cambiare denaro? Mi chiese Ying. Sì, devo cambiare pochi dollari americani, risposi. Serviranno a settima sorella per il suo viaggio in aereo a Hong Kong. Come si vede, anch'io avevo acquistato denaro americano al mercato libero di Hong Kong da portare con me a Chongqing. Terzo zio annuì amabilmente. Zia Sheng, che era poi Ying, potrà ottenerti il miglior tasso possibile. Farà certo meglio di quanto possa fare io. No, davvero, si schermì Ying. Ti darai il cambio migliore, insistette terzo zio, e soggiunse con disinvoltura. Qualche tempo fa tua sorella mi ha dato del denaro da cambiare, ma non ho potuto ottenere un cambio favorevole. Seppi così che aveva semplicemente cambiato quel denaro al tasso ufficiale, senza prendersi la briga di ricorrere al mercato nero. Tanto a Chongqing che a Hong Kong tutti compravano al mercato nero. Ying mi sorrise. Ci penso io, disse. Le diedi tutto il denaro che avevo, in modo che potesse anche provvedere a procurarmi il biglietto di ritorno in aereo, cosa non facile in quel periodo a Chongqing. In vista della situazione instabile, bisognava corrompere parecchi funzionari per ottenere il permesso di imbarco e un cittadino qualsiasi non aveva la minima possibilità di riuscirvi. I pezzi grossi partivano uno dopo l'altro. Fortunatamente Ying faceva la pioggia e il bel tempo all'agenzia aerea locale e quindi il mio ritorno a Hong Kong era assicurato. Frattanto la sua automobile era a mia disposizione. È piacevole appartenere alla classe superiore, pur sapendo che essa sta vivendo i suoi ultimi momenti. È piacevole poter disporre di un'automobile e farsi prenotare il posto sull'aereo. Naturalmente tutto ciò non era che ingiustizia e corruzione, ma ne godevo ugualmente, sapendo che si trattava soltanto di poche settimane. D'altronde anch'io appartenevo a questa corruzione, che aveva reso possibile la mia costosa e ibrida educazione, la quale a sua volta aveva reso possibile il mio incontro con Mark, la nostra comprensione reciproca e l'amore. Tra poche settimane tutto sarebbe cambiato. I pacchettini di calze di nylon, di borsettine in filigrana d'oro e di dollari americani che amici compiacenti riuscivano a far pervenire a Ying per aereo da Hong Kong, non le sarebbero più giunti. Con la sua abituale benevola noncuranza, terzo zio mi aveva detto a colazione, fra un sorso e l'altro di tè: Xinjiang sta parlamentando, fra pochi giorni sarà dall'altra parte. Ciò significava che il governo provinciale del Xinjiang, nostro vicino, aveva iniziato segrete trattative con i comunisti. Il Xinjiang venne ufficialmente liberato 3 settimane più tardi. Da parecchi anni avevamo venduto le nostre terre e quindi non potevamo più essere considerati proprietari terrieri. Attendevamo quindi con tranquillità lo svolgersi degli eventi, bevendo tè, discorrendo con i nostri amici, sfruttando fino all'ultimo le gomme usate delle nostre automobili e godendo piacevolmente l'ozio delle nostre giornate, che costituiva l'autentico marchio della nostra superiorità di classe. Quella sera, con Ning e molti amici e parenti, giocammo a Mahjong alla nostra maniera tradizionale, e cioè con straordinaria rapidità. I nostri anziani l'avevano tanto giocato che non guardavano nemmeno più i dadi di avorio scolpito, ma si limitavano a tastarli col polpastrello e, senza prendersi il disturbo di voltarli, sapevano quali dovevano tenere e quali scartare. Ciò rendeva il gioco così veloce che non riuscivo a seguirlo. Ying ed io sedevamo accanto e ci sorridevamo in silenzio, felici di essere insieme. Siete davvero fortunato, disse Ying a terzo zio. Tanti figli in famiglia e tutti virtuosi. Guardate terza figlia, che ero io. Vedova da tanti anni, ancora non pensa a risposarsi. Una vedova virtuosa e casta è cosa assai rara in questi dissoluti tempi moderni. Terzo zio mi lanciò un'occhiata scrutatrice. È testarda e ha un brutto carattere, osservò, ma sa controllarsi. Ying si volse verso di me. Sei un esempio per tutti noi, disse. Sei stata una moglie modello e ora sei una vedova modello. Fai grande onore alla famiglia. Oh, Mark, Mark, gridai nel mio intimo, apprezzando l'umorismo della situazione, ma esteriormente arrossii con la debita modestia. Poi terzo zio diede inizio ad un altro dei suoi monologhi che tutti ascoltammo col rispetto che gli era dovuto. I giovani moderni mancavano soprattutto di virtù e questa era colpa dei genitori, dichiarò, lanciando questa accusa come una bomba a mano ed evidentemente compiaciuto dell'impressione suscitata nei suoi ascoltatori. Nelle famiglie moderne la madre affidava il bimbo appena nato ad una balia, contadina rozza ed ignorante, spesso pressoché idiota, e fino alla nuova maternità passava il suo tempo a spettegolare e a giocare con le vicine e le concubine. Insieme al latte sano della nutrice, il bimbo ne assorbiva il livello intellettuale e il carattere. E verso i 3 anni, nel momento dello svezzamento, il suo cuore era rozzo e ineducato e la sua mente aveva sofferto del nutrimento che gli era stato dato, mancando di tutti quegli elementi atti ad elevare lo spirito. Poi il ragazzo veniva affidato alle serventi che lo viziavano, indulgendo sui suoi difetti. Non c'era quindi da stupirsi che ne uscisse un uomo insubordinato, testardo, pieno di zotiche curiosità, incapace di concentrarsi nelle cose dello spirito. Su di un simile terreno avevano facile sviluppo i semi della corruzione, dell'immoralità, e così le donne perdevano la castità, gli uomini abbandonavano le famiglie per altre donne, i genitori non potevano più contare sull'appoggio dei figli e le grandi case decadevano. Al termine del discorso, potemmo finalmente dedicarci a gustare la cena, a base di cibi energetici e altamente sudoriferi, con abbondanza di peperone rosso, in ogni pietanza. Ciò diede a terzo zio un'altra occasione di far notare come Su Shen fosse diversa da tutti noi. Non le piaceva il peperone rosso, a differenza dell'intera famiglia di gusti prettamente sichuanesi. Cominciai a capire quanto Su Shen dovesse detestarmi. Non facevano che dirle: a terza sorella piace questo, terza sorella ha detto quest'altro, terza sorella fa ogni cosa come noi, aspetta che torni terza sorella. No, evidentemente non erano stati comprensivi con lei. Non credo che sia molto igienico mangiare tanta roba pepata, mi disse poi Su Shen, dopo la cena per la quale era arrivata in ritardo, dopo il monologo e l'accenno al peperone rosso. Tu stai ingrassando. Come medico dovresti avere più buon senso. Nei giorni seguenti, Ying ed io andammo a fare visita a parenti e amici, facendo e ricevendo regali. Andammo all'opera cinese, a banchetti e a feste. Dormii assai poco in quei giorni laboriosi. Tutti erano felici ed io ero la più felice di tutti. Terzo zio fece molte altre perorazioni e una di esse si dilungò a trattare dei cibi europei, dannosi ai denti, ai capelli e ai muscoli e ai quali si doveva imputare il cattivo odore proprio a tutti gli europei. Io lo stavo ad ascoltare, affascinata dalle sue frasi pompose, dal suono rotolante delle sue parole, giudicandolo pieno di onesti pregiudizi in questo e in molti altri campi, quanto lo era stato il Sir Roger di Edison, in quelli che risultano naturalmente più vicini al cuore di un inglese. Annuivo e mi dichiaravo d'accordo con lui in tutto, cosicché egli finì col convincersi di avere sempre conosciuto l'Occidente meglio di chiunque altro nell'intera provincia. Ying aveva sempre per me il suo dolce sorriso e mi faceva ammirare i suoi vestiti nuovi e la sua lacca da unghia americana di Peggy Sage. Comodamente sdraiata nei palanchini, andammo alla sua residenza estiva sul secondo range, a teatro e al cinema a vedere film americani. Un giorno mi insegnò persino a ballare la conga e la samba. Ying si interessava di ogni cosa e si teneva sempre al corrente degli ultimi ritrovati della fantasia moderna. Ovunque a Chongqing non vedevo che squallore e trascuratezza. Tutto quello che anni prima non era stato bombardato si trovava ancora nello stato di allora. Nulla era stato rimosso, lavato o spolverato dalla fine della guerra. Uno strato di sudiciume copriva ogni cosa. I due soli oggetti nuovi che ricordo di aver visto erano due lucenti sputacchiere di ottone nella stanza da letto di Ying. Si accennava vagamente a un nuovo stadio, a un nuovo bazar e a nuove case, ma come di cose irreali e fuori dal mondo di ogni giorno. E naturalmente si parlava ben di rado di quello che doveva accadere e soltanto con brevi allusioni. Nella società a cui appartenevo non udii nessuno esprimere la speranza che il governo nazionalista avrebbe cercato di resistere all'incombente minaccia. Alcuni commercianti avevano trasferito parte dei loro affari a Hong Kong o a Formosa, ma la maggioranza non aveva rapporti commerciali fuori della Cina e così era rimasta ad attendere lo svolgersi degli eventi. Un giovane affarista, nostro lontano parente, a capo di una società che trattava setole di maiale, aveva cambiato tutto il suo patrimonio in dollari americani. Terzo zio giudicava ciò molto sciocco e riteneva che tutto gli sarebbe stato confiscato. Infatti, i suoi timori risultarono giustificati. Nessun governo può continuare a governare se ha abbandonato la virtù, mi disse un giorno, tirando le somme della situazione. Il Kuomintang l'ha abbandonata e quindi deve andarsene. Tanto era sufficiente per lui. Non aveva bisogno di altre ragioni, poiché, pur non essendo certo perfetto, sapeva che il mondo appartiene alla virtù e non al denaro, alle armi o alle cifre. Il momento della mia partenza si avvicinava e io volevo parlare a terzo zio di Mark perché desideravo che venisse accettato dalla mia gente, quale egli era, senza alcuna finzione. 2 giorni prima di partire mi trovai sola con lui sulla veranda dopo cena, come era ormai nostra abitudine. Sdraiati nelle poltroncine di bambù, ci facevamo vento in silenzio. La notte era fonda e odorosa del fumo di un braciere acceso nella casa adiacente, dove una donna soffriva di malaria. Dal cortile saliva di tanto in tanto la strofa di una cicala e il fiume si muoveva appena nell'oscurità, più intuito che visto o udito. Terzo zio aveva compreso che desideravo parlargli e mi diede modo di entrare in argomento chiedendomi della mia vita a Hong Kong. Gli dissi del mio lavoro, delle possibilità offerte a un medico e del mio desiderio di ritornare in Cina e poi soggiunse bruscamente: «Sto pensando di rimaritarmi. È straniero». Il ventaglio di terzo zio non rivelò la minima emozione e continuò impassibile ad accarezzare la notte. «Parlami di lui», egli disse tranquillamente. Giudicai opportuno cominciare col peggio. È un inglese, è sposato, vuole divorziare dalla moglie per sposare me e lo ritiene possibile. Non vuoi essere la sua concubina? No. E per sposarti che intende ripudiare la sua sposa straniera? Così dice, gli stranieri danno molta importanza a quello che chiamano felicità e anche all'amore. Lo rispetti, oltre che amarlo? Sì. È più forte di me, è mite e comprensivo. Vorrei obbedirgli e seguirlo sempre. Sapete che non mi lascio dominare soltanto dall'emozione. Hai sempre avuto un intuito sicuro nella scelta delle persone. Beh, conosce bene il nostro paese e vuole lavorare qui. Entrambi desideriamo lavorare in Cina. Terzo zio rimase a lungo, senza proferire parola. C'era una certa stanchezza nel suo silenzio e sebbene mi ostinassi a sperare, sapevo bene quello che egli non diceva. Ma in quel momento, a Chongqing, volli chiudere gli occhi di proposito e mi rifiutai di comprendere il suo silenzio. Oh, no, diceva il mio cuore, non è così, non può essere così. Non volevo accettare la sentenza, non ancora, non volevo sapere. Mi chinai a schiacciare una zanzara che mi pungeva la gamba e la notte era così fonda che rialzandomi fui sorpresa di vedere il cielo brulicante di stelle. Terzo zio si alzò e allora compresi che aveva deciso di non parlare dato che io mi rifiutavo di pensare. Forse anche lui non ci vedeva molto chiaro. Il tempo fugge e cambiano le usanze, disse. Ma le cose rimangono, anche quando chi le ha usate è già morto. Abbiamo tenuto gli abiti di tuo marito per anni. Chi può sapere quello che ci porterà l'anno nuovo, ora che il mondo cambia più in fretta di noi? Ti puoi risposare. Vorrei farlo venire qui a conoscervi un giorno, dissi timidamente perché ero molto commossa. È molto inglese, ma tuttavia non vi urterà. È diverso, non c'è in lui né ferocia, né timore, né arroganza. È sempre gentile, cortese, un uomo di grande virtù. E la sola cosa che mi addolora è il pensiero che dovrà soffrire e far soffrire per sposarmi. Ma così è il mondo, purtroppo. Se fossi vissuta 50 anni fa e lui fosse stato cinese, sarei stata felice di essere la sua concubina e di servire lui e sua moglie, perché avrei considerato un onore poter servire un uomo suo pari, anche come schiava. Sì, queste usanze occidentali non sono affatto pratiche, rispose terzo zio, ma poiché questo è il suo mondo, così deve essere. Il giorno seguente tutta la famiglia sapeva. C'era in loro lo stesso affetto e lo stesso amore, ma sapevano. Tuttavia, i comunisti erano alle porte e tutto stava cambiando. Questo non era che un segno dei tempi. Certamente non avrebbero più eretto un monumento alla mia virtù di vedova, ma chi poteva sapere se sarebbe stato loro ancora possibile onorare le tombe ancestrali? E così, quando partii, ricevetti, fra i molti regali, anche le coperte imbottite di raso che si donano sempre alle spose per il loro letto matrimoniale. Una era di un viola imperiale, con due righe di farfalle e peonie verdi e argento, la seconda rossa e oro con draghi e fenici, e la terza di un azzurro cupo con pini, fiori di pruno e bambù. Ricevetti inoltre una pezza di pesante seta bianca per camicie da uomo, un ventaglio di foggia maschile, due scatole di sigari di Sichuan, un pesante sigillo di giada e rotoli di pergamene. E nessuno pronunciò una sola parola per cercare di farmi cambiare idea. L'autobus per l'aeroporto partiva alle 8 di mattina. Terzo zio, terza zia, il mio bagaglio ed io lasciammo la casa alle 7 in una macchina prestataci da uno dei nostri numerosi cugini al Ministero degli Esteri, poiché durante la settimana di festeggiamenti in mio onore, tanto la macchina di Ying quanto la nostra avevano tirato le cuoia per l'eccessivo lavoro. Alle 6 lo zio aveva fatto una capatina in un negozio famoso per i suoi dolci della luna. Tra 10 giorni ci sarebbe stata la festa della luna e lo zio sapeva che non mi piacevano gli speciali dolci cantonesi, gonfi e falstafiani con la pasta pesante e il mostruoso ripieno di uova d'anitra, prosciutto, frutta candita e noci. Io ero golosa dei piccoli dolci soffici del nord, appena ricoperti di cialda bianchissima, con le mandorle tirate sottili e il ripieno di datteri. Terzo zio li aveva ordinati la sera prima e andò a ritirarli di persona, per tema che il servo combinasse qualche guaio. Trionfante e lucente di sudore, mi sedette accanto, tenendo sulle ginocchia la scatola di cartone con i dolci. Terza zia mi stringeva la mano. Ero arrivata con due valigie colme di regali acquistati a Hong Kong e ripartivo con le stesse valigie colme di regali per me, per Mark e per i miei amici, con una cesta piena di sottaceti di prosciutti e con due bottiglie di pietra contenenti quel vino Mao Tai per il quale terzo zio, mio padre e io stessa avremmo venduto la nostra anima. Tuo padre soleva bere il vino da una scodella da riso, disse terzo zio. Poi prendeva in mano il pennello e scriveva poesie. Le colline dietro il fiume erano azzurrate dalla nebbiolina e a circa 200 metri sotto di noi il fiume allargava in pigre ondulazioni il suo corpo di seta. La brezza del mattino era caduta e già l'afa incominciava a farsi sentire, ma la polvere aveva ancora riflessi d'oro e nei volti delle persone che camminavano per la strada indugiava ancora la tenera espressione del risveglio. Giunti alla stazione, scendemmo dalla macchina per attendere l'autobus che doveva portare i passeggeri all'aeroporto, lontano 17 miglia. Ripensandoci, portai istintivamente la mano alla schiena e la zia rise. Terzo zio indossava una lunga veste di fine lana nera e terza zia era in seta nera. I suoi capelli erano lisci come ali di corvo. Si appoggiarono entrambi al muretto che limitava la strada. Alle loro spalle la roccia piombava ripida fino all'acqua sottostante. Qua e là, vicino alla riva, alcune capanne si aggrappavano pericolosamente alle sporgenze, simili a quelle dei profughi sui pendii collinosi di Hong Kong. Ricorderò sempre gli zii, come li vidi in quel momento. Mi guardavano senza fare un solo gesto, sorridendomi di un sorriso dolce e triste. Non sapevamo se ci saremmo mai rivisti. Si attendevano grandi cambiamenti, ma la famiglia non sarebbe partita. Non c'era rifugio sicuro, non c'era America per loro. Qualunque cosa fosse accaduta, non se ne sarebbero andati, poiché la Cina era il loro mondo e non esistevano altri. Niente fughe eroiche, niente oro dell'Occidente, niente discorsi di libertà personale, quando nel loro paese c'era chi moriva di fame. Per loro non c'era che la fede nella terra e nella sua gente e la fermezza di intenti di cui i giornali non parlano mai. Non sapevano che cosa significasse la parola democrazia, ma sapevano che questa era la loro terra e che era loro dovere rimanere. Non erano foglie sbattute qua e là dalla tempesta, in disperata cerca di scampo, bensì alberi profondamente radicati, che non potevano venire abbattuti, incuranti dei ramoscelli divelti dal vento. Ricchezza e felicità erano nelle mani del fato, ma l'essere umano deve accettare ciò che il fato gli porta e non cercare di fuggire. L'autobus cominciò a sputacchiare, a sibilare, a ruggire. Terzo zio, terza zia, dissi, inchinandomi a loro dall'apertura già sbarrata con i soliti pali. Essi mi salutarono con un lieve movimento dei loro ventagli. Ero così commossa che le lacrime mi pungevano gli occhi. Quando l'autobus balzò in avanti con un violento scossone, aprii la scatola che tenevo sulle ginocchia e ciecamente, come una bambina, addentai un dolce per frenare le lacrime. Capitolo 6. Profili di Hong Kong. Ottobre 1949. A Hong Kong ci sono 27 tipi di serpenti terrestri, di cui soltanto 7 velenosi, lesse Mark. Questo signore deve essere piuttosto ottimista, non ti pare, Su Yen? Oh, Mark, una farfalla ti si è posata sulla spalla, turchese ed ebano, e di buon augurio per noi, non muoverti, ti prego. C'è ancora? Chiese Mark, badando a non muovere il capo. Spero che si posi anche su di te. La farfalla volò via, planando pigramente sulla lunga erba e lasciando i nostri cuori leggeri come la sua carezza sulla spalla di Mark. Se amore quello che ti porto, dissi, vorrei che non pesasse su di te più di questa farfalla. Adorata, nessuno dirà più al suo amore frasi così belle nella vostra nuova democrazia. Tutti saranno occupati col lavoro, l'autocritica e la dialettica. La politica non esclude l'amore. Egli le dirà: sei bella come il nuovo impianto idroelettrico, ed ella risponderà: quanto sei progressista, compagno. Faceva caldo sulla collina. Il sole si infiltrava in ogni angolo del nostro corpo, tenero e tangibile, tanto simile ad una carezza d'amore da essere quasi insopportabile. Il profumo aromatico dell'erba e quello della terra si fondevano con la fragranza che emanava dalla pipa di Mark. I suoi occhi mi erano vicini, spalancati. Tu e il sole, esclamai. Non sapevo che gli occhi azzurri potessero essere tanto affascinanti. Guarda, mi disse Mark, che aveva deciso di essere molto intellettuale e che a questo scopo aveva portato con sé giornali, riviste e il gioco di parole crociate del Times. Questo è il paragrafo 7 della Costituzione del matrimonio del nuovo governo del popolo in Cina. È concesso alle vedove di risposarsi. È una bella notizia, non ti pare? Ora la tua famiglia non dovrà vergognarsi coi vicini per causa tua. Oh, le vedove, quelle non virtuose, si sono sempre risposate. E da anni abbiamo il divorzio per consenso reciproco, ma i cinesi, come gli inglesi, sono più ligi alle tradizioni che non alla legge. E le vecchie usanze sono dure a morire. La Cina è un terribile miscuglio di cose vecchie e nuove. Chiunque cercasse di scrivere un libro sui cinesi di oggi non farebbe che contraddirsi a ogni passo. Gli anglosassoni non hanno le idee chiare sul tuo paese, disse Mark. Per noi è ancora una terra meravigliosa di tesori nascosti e di saggezza sottile. Sospettiamo che possa anche essere diversa, ma continuiamo a sperare, poiché siamo sentimentalisti. Le nostre menti da turista sono portate a conservare le antiche usanze altrui, le esotiche manifestazioni di indigeni di altre terre. Ci piace sognare le nazioni dell'Oriente in pittoresca pompa, avvolte in broccati d'oro, in ricami sontuosi o in deliziosi cenci, praticanti gli antichi riti magici alla luce della luna o delle torce. Soprattutto devono essere fotogeniche, dimenticando completamente la loro qualità di esseri umani, diciamo ai loro abitanti: è davvero peccato che vogliate rinunciare alle vostre care antiche usanze, a quel meraviglioso sistema familiare che tanto ammiriamo, poiché non viviamo sotto il suo giogo. Non siete voi che vogliamo, ma le vostre tradizioni, la vostra cultura, la vostra civiltà. Noi anglosassoni siamo maniaci delle cose da museo, collezionisti di un passato chiuso in una cassetta di vetro e portante l'etichetta non toccare. Tuttavia, credo che alcuni di noi comprendano anche il presente. Ah, voi comprendete il presente soltanto quando è ormai passato, ribattei, e soltanto dal vostro punto di vista. Date inizio alle riforme quando è quasi troppo tardi e fornite soccorsi dopo l'imperversare della carestia. Gli stranieri hanno idee troppo rigorose su come i cinesi dovrebbero comportarsi, parlare, fare della filosofia. Fatalismo, imperscrutabilità, serenità perfetta non sono che fantasie che l'immaginazione occidentale vuole ad ogni costo attribuire alla mia razza, pratica ed estroversa. Disperdono la realtà della Cina nel mito di un Katai sufficientemente antico da affascinarli. Non vogliono accettare le spiacevoli verità sulla Cina, la sua fame enorme e collettiva, la sua esorbitante povertà, la sua violenza, il suo desiderio di asserzione e l'inevitabilità della sua rivoluzione. La civiltà che tanto ammirano l'hanno distrutta loro stessi, poiché furono loro ad abbattere le dighe di quella tradizione che conteneva il nostro spirito esuberante e vitale. Dovresti scrivere qualcosa sull'anima tormentata del cinese di oggi, disse Mark, poiché interi rimangono ancora frammenti del passato, anche se desideri trovare il tuo posto nel nuovo ed ancora oscuro sistema a cui il tuo paese sta dando forma. Temo che dovrai soffrire molto, mia cara. Se dovessi mettermi a scrivere, i critici direbbero che non sono cinese. Nei miei scritti non ci sarebbe imperscrutabilità, né fatalismo, né molta filosofia. Sarei selvaggia, violenta, perversa e decadente al tempo stesso. La gente interpreterebbe come politica le mie più semplici asserzioni e non vedrebbe chiaro sul significato delle mie parole. Perché tutti i significati vengono svisati. Oggi i lettori cercano nei libri le opinioni politiche dei loro autori e sono confusi di fronte a parole a cui i giornali li hanno abituati ma che non capiscono. E siccome tutti vogliono sempre una risposta prima ancora di aver formulato una domanda, non riescono a ottenere che opinioni, in pro o in contro. Una mente indipendente è cosa pericolosa, perché non appartiene a nessun partito ed è sospetta a tutti. No, io andrò in Cina e rimarrò fedele alla medicina. E la mia gente non mi importa che sia rossa piuttosto che azzurra o verde scuro, come tutti i cinesi. Io sono affascinata dalla mia terra. Tra 2 mesi finirai il tuo anno di ospedale a Hong Kong e tu te ne andrai, disse Mark. Cercherò di seguirti, poiché come molti stranieri non posso lasciare la Cina. Anch'io ne sono affascinato. Incantato per sempre, come te ho fiducia nel buon senso della tua gente, ma credo che ti sarà molto difficile adattarti alla nuova concezione di vita. Molti di coloro che appartengono a quella categoria superiore a cui tu stessa appartieni, pur disprezzandone la vacuità, strappano ora le proprie radici e se ne vanno. Sono sempre convinto che tu debba ritornare, ma temo che sia già troppo sensibile per poter partecipare all'adolescenza della tua terra senza sacrificare gran parte del tuo io. Sei troppo staccata e disingannata, nonostante l'amor patrio, per essere posseduta da quella fede ardente, da quegli odi feroci. Sei troppo equilibrata e le multiple personalità esistenti in te sono fuse a un punto di troppo delicata armonia per permetterti di subire ancora le opinioni di parte e il fascino di una semplice mistica di idealismo. Credo davvero che dovrai nascere un'altra volta. L'Occidente è vecchio, l'Oriente è nuovo. Le nostre parti si sono rovesciate. La Cina è giovane, tumultuosamente, disperatamente giovane, con la sua aspirazione alla perfezione umana e alla fratellanza sociale, la sua fede nelle macchine, nel progresso, la sua intolleranza in contrasto con la nostra apatia, il suo universo bianco e nero e i suoi slogan. Tu fai tutto troppo semplice, ribattei. In Cina ci sono persone di ogni genere, complicate quanto noi due, perché altrettanto vive. Ci sono le vigorose menti cinesi che assorbono le sottigliezze del cristianesimo con animistico buonsenso. Gli infelici giovani sconcertati che credono sia alla magia nera che alla teoria del quantum, mescolando i secoli come un mazzo di carte. I primi cristiani cinesi con le loro confessioni, i loro pentimenti e i loro esami di coscienza, i cinesi patrioti, i quali costituiscono il forte nucleo di tutto il comunismo asiatico, che altro non è se non ardente nazionalismo. I cinesi dalla mentalità storica, ossessionati dal passato e dal ricordo della grande ingiustizia bianca, gli emigranti cinesi che se ne vanno sperando di poter tornare un giorno. Inoltre, ci sono quelli che sono qui, a Hong Kong, in attesa che la polvere si posi per poter vedere chiaramente quello che conviene fare, e i molti opportunisti che aspettano di schierarsi col vincitore. E, dopo tutto, chi potrebbe biasimarli? Non tutti sono fisicamente in grado di optare per quello che viene chiamato libertà. Questa parola è incomprensibile in Asia, dove la fame è assoluta e la libertà così relativa. Credi che noi saremo in grado di scegliere? Chiese Marco un po' tristemente. Non so, risposi. Per il momento siamo, come molti altri, soggetti al destino. Vogliamo andare a Pechino, tu come giornalista, io come medico, ma la possibilità di andarci insieme non dipende da noi. Bisognerà vedere se il tuo governo riconoscerà quello di Pechino, se il tuo mondo accetterà la nostra inevitabile rivoluzione e la sua possibile conclusione, se ci sarà una guerra o no. La nostra sorte dipende dalla politica, dall'economia, dai mercati, da tutte queste cose che io non capisco. Pensi che il vostro nuovo regime lascerà entrare i giornalisti? Oh sì, lascia che le cose si stabilizzino. Sei tanto caro, Mark. Non si può fare a meno di trovarti simpatico. Tuttavia, scommetto che se scriverai un articolo favorevole alla nuova Cina, la gente dei club di Londra aggrotterà la fronte leggendo il giornale e si chiederà se tu stai diventando rosso. E alcuni mormoreranno: è colpa di sua moglie, è il suo influsso. E se io parlerò bene dell'Inghilterra, poiché è nel tuo paese che ho imparato la libertà di parola, i cinesi diranno: le sue opinioni sono state corrotte da quel giornalista imperialista britannico. Mark rimase in silenzio per qualche istante. Poi si volse verso di me e sorridemmo entrambi, felici del sole e di noi stessi, e pensando, nella nostra felicità, di avere una speranza di vita insieme. Intorno a noi, Hong Kong si crogiolava al sole. Hong Kong, minuscola escrescenza del continente cinese, esilio di tanti in rassegnata attesa del futuro, come noi due.